alla luna, perché mi porti la fortuna, specchi d'acqua nella notte, riflettono pallide illusioni. Amare ora, amare sempre, questo è il tempo dell'amore. Abbracciati sopra uno scoglio, in silenzio ascoltiamo le onde. Voglia di te, stare con te, vivere sempre con te. Amami adesso, ma non solo sesso, voglio il tuo cuore, baby. Voglia di te, stare con te, voglio vivere con te. Amami adesso, amo il sentimento, quello che scalda dentro. Voglio suonare una canzone sotto i raggi di questa luna. Baci e abbracci, sorridi e scappi, mentre io corro verso di te. Amami ora, amami ancora, amo tutto, lo sai, di te. Siamo soli su questa sabbia, di un video che canta. Voglia di te, stare con te, vivere sempre con te. Amami adesso, ma non solo sesso, voglio il tuo cuore, baby. Voglia di te, stare con te, voglio vivere con te. Amami adesso, ho sentimento, quello che scalda dentro. Con te, amami adesso, ma non solo sesso, voglio il tuo cuore, baby. Voglio di te, stare con te, voglio vivere con te. Amami adesso, ma col sentimento, quello che scalda dentro.